fermarci, ma quello è il 77, se pensavo di ammazzare la rabbia, non abbiamo continuato a attraversare le strade, contro i loro divieti, contro la loro testa morale, e queste sono solo delle tappe, perché noi usciremo oggi da questa piazza, determinate e determinati, con la rabbia di ogni giorno, con la rabbia della precarietà, con la rabbia che sempre qualcun altro vuole decidere per noi, sulle nostre vite, sulle nostre corpi, sulle nostre scelte sessuali,